Volevo ringraziare tutte e tutti per questa splendida manifestazione. La manifestazione per noi è importante, è inutile raccontarvi quello che ci è successo negli ultimi periodi e quello che stiamo attraversando. Era importante per noi dare questa risposta, darla nel quartiere, darla in un quartiere che ci ha visto lavorare qui per 10 anni e che ci ha dato tanta solidarietà dopo l'incendio. Era importante far vedere che questa realtà non era una realtà di marziani, di zecche e tossici, come ci chiamava il nostro vecchio sindaco, attuale governatore Scopelliti, ma una realtà che ha saputo... ma una realtà che in questi anni ha lavorato tanto, ha lavorato costruendo relazioni in questa città, costruendo relazioni in Italia, nel sud. Un ringraziamento va a tutte le compagne e i compagni che ci hanno raggiunto oggi da tutta la Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Campania, grazie, da Milano e da Bologna, mi scusino. È da Roma, è da Roma, è da Londra, fateli la lista che non... Noi continueremo, non ci potrà fermare questo incendio, non ci potrà fermare chi ha voluto chiudere questa esperienza così. Se lo ha fatto per interessi economici, se lo ha fatto perché diamo fastidio, se lo ha fatto perché ci vogliono zittire, non lo sappiamo in questo momento. Sicuramente sappiamo che chi ci sta dietro e chi in questi anni ha tutti quei comitati d'affari, tutti quei gruppi di potere che in questi anni hanno gestito Reggio, hanno gestito completamente la città, speculando sui territori, speculando su tutto quello che è possibile, cercando di dettare legge su tutto quello che si muove in questa città. Noi gli siamo stati sempre contro, continueremo a farlo, non ci possono spaventare in questo modo. Il Cartella continuerà e sarà ricostruito più grande e più bello di prima. Buon proseguimento. Chi parla? Un paio di appuntamenti prima di passare il microfono allo sciamano. Domani mattina in città a Reggio ci sarà un'altra manifestazione importante, perché non è soltanto l'attentato che c'è stato al Cartella in questi giorni a suscitare l'attenzione, a far riparlare in questa città di antifascismo. C'è stato un convegno di Casa Pound ospitato dalla sala del Consiglio Comunale, ma soprattutto c'è stata una raccolta di firme per intitolare una piazza della città Almirante. Domani mattina a Piazza Orange, che è la piazza proprio dove vogliono che sia chiamata in questo modo, ci sarà una manifestazione organizzata da tutte le forze democratiche antifasciste di questa città, ci saremo anche noi, quindi l'appuntamento per chi ci sarà domani a Reggio è di partecipare domani mattina alle 9:30 a questa manifestazione a Piazza Orange. Per i calabresi il 16 di giugno ci sarà una manifestazione contro l'ennesima aggressione a questi territori, alla discarica a Cariati. L'appuntamento è quindi di partecipare a tutti, anche chi non è della Calabria. E poi il 2 giugno ci sarà la manifestazione nazionale a Roma per l'acqua bene comune. Si sta organizzando un pullman dalla Calabria, chi vuole si mette in contatto che partiremo. Io ho finito di rompere, sciamano.